Pulcinella e Colombina, stanchi di essere appesi per la testa a un filo, decidono di abbandonare il gran teatro di marionette, diretto da Fernando Malvasia. Fuggiti dal paese di Te lo domando, le tre marionette vanno incontro alla vita, senza fili, si intende. Radio Città Fujiko presenta Marionette in libertà. Massimo Vitali legge Gianni Rodari. Capitolo terzo. Con una storia e qualche invenzione si fa felice un vecchio salmone. Presto, presto! Bisbigliò la stella. Arlecchino, Pulcinella, Colombina, presto via! Sento odor di Malvasia! La regina adesso piangeva perché nessuno la scioglieva. Amici e signori, siate cortesi, tagliatemi il filo e vi faccio marchesi. Avete le forbici, sacra corona, adoperatele se siete buona. Ma la carrozza poi sarà pronta? Piagnucolava la povera tonta. Chissà sul sedile se c'è il piumino, se c'è la brace nello scaldino. I nostri amici avevano fretta, non perdono tempo a darle retta. Infilarono il portone tra le gambe del padrone, saltarono il muro, saltarono il fosso e correndo a più non posso, con la stella che gli fa da lume, si ritrovarono in riva al fiume. Erano alti soltanto tre spanne e si nascosero tra le canne. Malvasia, con aria stanca, fa il suo ingresso nella baracca. Aveva bevuto più che tanto, perciò la conta andò d'incanto. Guarda, guarda, meraviglia, mi è cresciuta la famiglia. Ho tre regine con tre re. Avevo un diavolo e adesso ne ho tre. Di questo passo sarebbe bello, mi verrà un diavolo per capello. Il diavolo, brutto spione, si provò a dire: Sor padrone, non faccia la somma, abbia pazienza. Lei deve fare la differenza. Ma il sor Fernando non sta a sentire. Si butta sul letto, attacca a dormire. E tanto forte fischiò e russò che la regina si disgustò. In mia presenza, che mala creanza! Potrebbe andare almeno in un'altra stanza. I nostri amici, in mezzo ai canneti, non riuscivano a stare quieti. Attraversiamo? Non so nuotare. Il legno però non può affondare. Noi siamo di legno, non si falla. E abbiamo il diritto di stare a galla. Ma se poi l'acqua non lo sa? Si va? Non si va? Che cosa si fa? La discussione finì in un modo buffo, con Colombina che splash fece un tuffo, trascinando nell'acqua gelata anche il resto della brigata. Nuotava lì intorno un vecchio salmone, piuttosto curioso e anche impiccione. Pesci vestiti? Strano affare, non ne ho mai visti neanche nel mare. O che ci siano da queste parti pesci modiste e pesci sarti. I signori son tanto chic, vanno forse a qualche picnic? I tre amici, per prudenza, non ci tenevano a far conoscenza. Ma voi chi siete, egregio signore? Sono un pilota traghettatore. Piacere, onorato, fortunatissimo. Il caso è davvero felicissimo. Noi siamo nuovi di quest'onda. Ci potrebbe mica guidare sull'altra sponda? Senza farsi tanto pregare, il salmone li lasciò montare. Ed in cambio del traghetto... Un soldo, disse, non lo accetto. Piuttosto, mentre vi asciugate, la vostra storia mi raccontate. I tre amici, per fargli piacere, gli narrarono tutto a dovere. E Pulcinella, per cortesia, aggiunse pure qualche piccola bugia, qualche piccola invenzione per fare felice quell'impiccione.